In collegamento con Michele Crocchiola di Movies Inspired per parlare di Banda Apart di Jean-Luc Godard, che sarà in sala dal 12 febbraio in edizione restaurata. Tanto Michele, benvenuto, ben ritrovato. Benvenuti a tutti e buongiorno ai radioascoltatori. Ci racconti un po', intanto diamo qualche elemento di trama di questo film. Beh, è una specie di Jules et Jim, solo virato in chiave noir. Ci sono lui, lei e lui. Sono due amici, una loro amica, ovviamente entrambi sono invaghiti, diciamo così, innamorati della ragazza. Il fatto è che la ragazza ha una nonna che probabilmente ha dei soldi nascosti in casa e allora il trio, più o meno forzatamente, sceglie di pianificare un colpo. E la cosa va abbastanza a buon fine fino a un certo punto, poi c'è un finale che non vi diremo, anche se il film è un super classico. È un film di Godard del 64 e in realtà tutto il film gira molto sul triangolo amicale amoroso di questi tre ragazzi, con alcune scene che sono entrate assolutamente nella storia del cinema. Io credo che Banda Apart, soprattutto negli ultimi anni, sia diventato uno dei film più citati nella storia del cinema. Beh, a suo tempo segnò anche un momento importante nella storia della Nouvelle Vague in Francia e non solo. Assolutamente, Godard dimostrò di poter giocare anche sui generi un po' hitchcockiani, se si vuole, e a modo suo ovviamente. Poi lui veniva dal Disprezzo, veniva da una super mega produzione con la Bardot, girato in Italia, peraltro restauro presentato l'anno scorso dalla Cineteca di Bologna, quindi siamo in ordine cronologico, e decise di fare un film low budget, girato in bianco e nero come voleva lui. Questo è un film godardiano al 100%, c'è anche molta voce fuori campo di Godard stesso, con questi suoi commenti un po' surreali che accompagnano l'azione. Michele, quali sono gli elementi di questo film che ti hanno più entusiasmato? Oddio, sai, oggi a vederlo tanti anni di distanza, l'emozione maggiore me la dà la corsa nel corridoio del Louvre dei tre protagonisti, perché è una scena che ho già visto, l'ha fatta Bertolucci in The Dreamers, è citata in molti altri film. Allora, rivedere l'originale è divertente. L'altra scena che ho guardato con un occhio da appassionato postmoderno, da chi è cresciuto col cinema negli ultimi 20-25 anni, è la scena del ballo che Quentin Tarantino ha usato come ispirazione per l'altrettanto famosa scena del ballo di Pulp Fiction. Quindi Tarantino è un grande appassionato del film, ha chiamato la propria casa di produzione Banda Apart, non a caso. E in Pulp Fiction John Travolta e Uma Thurman citano abbastanza esplicitamente la scena che c'è nel film di Godard. Michele, tu non sei un tecnico, però ci puoi dare qualche elemento sul restauro? Normalmente queste informazioni ci vengono da chi il restauro lo fa. Vi dico che in questo caso il restauro è stato curato da Gaumont in Francia, che è anche il distributore francese internazionale, detiene i diritti del film. Il film è stato restaurato in 4K, quindi insomma in alta definizione, lavorando sui positivi o sui negativi originali. Devo dire che il processo non lo conosco, ma questi restauri che escono al cinema in digitale in questi anni sono delle ripuliture quasi perfette, è come se fosse una pellicola appena uscita dal laboratorio. Senti, quest'uscita non riguarda solo l'Italia, esce in versione restaurata anche in Francia e altrove? È già uscito in È già Francia, uscito, noi ok. siamo un po' in ritardo, però, come dire, è un film senza tempo, quindi è bello che esca ora, ma è bello che venga restituito al pubblico in questo periodo, ma non siamo legati a un periodo d'uscita vero e proprio, questo è il bello di lavorare con i classici. Sì. Senti, che tipo di uscita sarà? Sarà una bella uscita che abbraccia quasi tutta l'Italia. Siamo una cinquantina di città che lo propongono nei primi 10 giorni. Diciamo, il film è disponibile dal 12 di febbraio, però essendo appunto un film senza tempo, i cinema lo stanno programmando da quella data in poi, nelle date che ognuno preferisce. Qualcuno lo fa anche il giorno di San Valentino. A me piace molto questa idea che ci sia un film di un triangolo il giorno di San Valentino. Michele, ci lasci anche tutti i riferimenti web per saperne di più? Allora, vi lascio la pagina Facebook di Movies Inspired per interagire con noi. Il sito si chiama nello stesso modo. Siccome stiamo parlando agli amici romani, vi dico anche che a Roma sarà dal 12 al Cinema Farnese, guardate il sito del Farnese per vedere gli orari esatti, e sarà anche il 12 sera la data di uscita all'Adriano. Il Farnese è un cinema amico, ci segue e per noi è importantissimo, però avere uno spettacolo serale all'Adriano speriamo di coinvolgere anche chi va a vedere un film un po' più commerciale, magari è proprio appassionato di Tarantino e vuole vedere quali sono le fonti di ispirazione del regista americano. Bene, allora ricordiamo Bande à part di Jean-Luc Godard dal 12 febbraio al cinema in edizione restaurata per Movies Inspired. Michele, un abbraccio, a risentirci presto. A risentirci presto con i prossimi film. La prossima volta parliamo di Omicidio al Cairo, che è uno dei film più belli dell'anno, ha vinto il Sundance e quindi ci aspettiamo vicendevolmente al varco. Sì, l'ho visto e per cui sono contento di parlarne con te. Allora ci diamo appuntamento alla prossima. Alla prossima.